Francamente non mi sorprende più di tanto, perché non è neanche il primo ministro o la prima autorità di governo che lancia un sasso in questa direzione. Visto che era a Parigi, poteva citare il proverbio francese: plus ça change, plus c'est la même chose, perché di questo si tratta, ma indicazioni in questo senso le abbiamo dai rapporti delle principali autorità. Le banche, grazie anche al fatto che continuando a immettere liquidità a condizioni favorevoli e in quantità eccezionali, hanno tutte le possibilità per utilizzare questa liquidità per scopi speculativi, cioè per prendere posizioni sui titoli, che vuol dire qualche volta rialzo e qualche volta ribasso, con tutte le conseguenze che ne derivano.